Le due capre da favole di jean de la fontaine tradotto da emilio de marchi registrato per librivox.org da paolo fedi settembre 2007 roma quando hanno mangiato tratte da uno spirito di libertà le capre ecco si sbandano qua e là su per le bricche più deserte in cerca di fortuna in luoghi senza strade e su per l'erte rocce e su balze aeree che a vederle ti mettono raccapriccio vanno queste signore ad una, senza paura, a spasso per capriccio. Due capre, dal piedin sottile e candido, ciascuna per suo conto, in luoghi andavano tranquilli ed isolati dalla gente, quando il caso le fece viso a viso incontrarsi sul ponte d'un torrente, fatto d'un asse sì meschina e stretta, che a stento vi si passava, io son d'avviso, non che due grosse capre, una capretta. Aggiungete che l'onda rapidissima e assai profonda alle cornute amazzoni dovette un poco far tremare il petto e tuttavia comincia una di qua e poi l'altra di là a fare un passo su quel tronco stretto nessuna indietro torna finché quasi si toccan con le corna così Luigi il Grande immaginatevi che con Filippo IV re di Spagna si incontrò un dì nell'isola che della conferenza il nome prese le nostre avventuriere già si toccano naso a naso già vengono alle prese e per non ceder nessuna in mezzo al ponte entrambe fiere insofferenti impronte ciascuna avea la gloria di contare nel quadro di famiglia l'una la capra celebre di cui narra l'istoria fece un don Polifemo a Galatea l'altra quella che a Giove fe di balia non men nota a Maltea con questi precedenti anziché cedere nell'acqua tutte e due precipitarono avvien che spesso accada questo accidente a chi della fortuna cammina sulla strada. Fine della favola Le due capre. Questa registrazione è di dominio pubblico.